in primo piano. In questo mercoledì 13 ottobre vedremo magari qualche titolo più avanti nella seconda parte di apertura, perché sono molto diversificati, ma certo c'è chi sceglie, e voglio aprire anch'io così, il calcio, o meglio quello che è successo ieri al posto del calcio, la follia di Genova. Genova, ultra serbi scatenati, sospesa la partita dell'Italia, e l'apertura del quotidiano La Repubblica, così La Stampa, guerriglia serba, l'Italia non gioca. Ma anche il quotidiano nazionale, io ho l'edizione Il Giorno qua a Milano, calcio vergogna. E così la Gazzetta dello Sport, oggi voglio partire da qui, le bestie. Questo è il titolo a 9 colonne, con la foto di quell'uomo incappucciato in nero, in questo caso fa il saluto nazista, in altri casi viene mostrato con il dito medio alzato. Se questo è sport, il direttore Andrea Monti, avremmo voluto raccontarvi una partita di calcio. Ci tocca la cronaca di una vergogna, fa male a dirlo, ma il protagonista della serata è lui, l'uomo nero, la bestia, l'immane, imbecille, incappucciato, che nella balaustra di Marassi ha guidato la gazzarra degli esagitati tifosi serbi, più miliziani che ultra, il simbolo di un calcio ormai balcanizzato, ostaggio di meccanismi che con le motivazioni più svariate e cadenze regolari produce violenze e guerriglia. È stata davvero una serata da dimenticare, o meglio da tenere ben presente. Per il mondo del calcio ovviamente ci sono le analisi di chi sono questi sedicenti tifosi, in realtà molto miliziani, i cosiddetti esponenti delle tigri di Arkan, che viaggiano un po' per l'Europa. Anche il Corriere della Sera, calcio e guerra, ecco chi sono le tigri di Arkan, a pagina 3 prendono il nome proprio da Arkan, vale a dire ex tifoso di calcio, diventato poi nella guerra dei Balcani uno spietato miliziano, le cui truppe fecero degli scempi indescrivibili. Trovate molto sul calcio, ma io vorrei anche raccontare prima della pausa una storia che raccontiamo e troviamo sul Corriere della Sera, firmata da Sergio Rizzo, davvero tutta italiana. Illegale pagato due volte dallo Stato, pagina 37 del Corriere della Sera. Come la beata Maria del Gesù, capace di convertire un'intera tribù di indios del New Messico, senza mai muoversi dalla città spagnola di Agreda, Giovanni Pascone ha avuto per anni il dono dell'ubiquità. Avrebbe potuto altrimenti essere giudice del TAR, direttore della SIAE, dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana, capo dell'acquedotto pugliese, avvocato del comune di Pomezia, funzionario dell'Istituto Nazionale Alta Matematica, consigliere del governo e contemporaneamente svolgere decine e decine di incarichi pubblici e privati. Dall'alto delle sue quattro lauree, lui non fa una piega. Intervistato dal sito pontino.it, dopo l'ennesima consulenza del comune di Aprilia, ha gonfiato il petto. Sono stato giudice ordinario, magistrato del TAR, magistrato della Corte dei Conti, consigliere parlamentare, ho lavorato alla Banca d'Italia, al Ministero dell'Interno, ho avuto tantissimi incarichi, capo ufficio legislativo ai lavori pubblici, consigliere giuridico di tutti i governi, di destra e sinistra. Alla faccia, scrive Sergio Rizzo, di incarichi la Guardia di Finanza ne ha contati 62 e poi ha trasmesso tutto alla Corte dei Conti, dove stimano che un fenomeno ai limiti del paranormale abbia prodotto un danno erariale di 2 milioni di euro. Dopo infatti l'ennesima consulenza, racconta poi Sergio Rizzo tutta la carriera di questo Pascone, Giovanni Pascone, tutta la carriera, la sua vicenda, insomma il suo curriculum professionale, dirigente di seconda fascia, poi le serie di consulenze, ripetiamo 62, contate dalla Guardia di Finanza, enti locali, comuni di Cagliari, Latina, Aprilia, la provincia di Milano, l'ASL di Casale Monferrato. Proprio nel 2008 però cominciano i guai, viene sospeso dal servizio perché per il GIP di Velletri gli impone l'obbligo di dimora nel comune di residenza per una vicenda che coinvolge la Aprilia Aser, società di cui è presidente, ovviamente dal 2007, e da qui la richiesta di danno erariale alla Corte dei Conti. Illegale, pagato due volte dallo Stato, dipendente in contemporanea di diversi enti pubblici, ora la Corte dei Conti dice restituisca 2 milioni. È una vicenda tutta italiana, come quelle che Sergio Rizzo racconta sul Corriere della Sera. La politica oggi è francamente noiosa, noiosa, più noiosa del solito dai giornali. Che dobbiamo dire? Di Montezemolo, della sua fondazione che ha criticato Tremonti e dunque poi si è scatenato, non so, Sacconi ha difeso il ministro, Brunetta sul Corriere della Sera dice Tremonti è il più bravo d'Europa. per il giornale Il Compagno Fini chiama Montezemolo, Futura Libertà vuole Montezemolo. Dobbiamo raccontare Francesco Bei, retroscenista oggi di Repubblica, principe, racconta di addirittura una riunione in gran segreto, che poi gran segreto non è se è su Repubblica, tra i ministri Fitto e Alfano e i ministri Frattini e Gelmini. Un brainstorming per siglare una tregua tra le correnti forziste. Oppure il Corriere, che inizia un viaggio nella crisi del PDL con Marco Imarisio, inizia da Lucca, regno del fuoco amico, il PDL spaccato in sei. Oppure, che dobbiamo raccontare, Bersani e Vendola che si vedono, pranzo con primarie alleanze per l'unità, e la prima pagina del manifesto, il filetto, un filetto di speranza, un filetto di speranza. Il filetto, il pranzo, è un filo di speranza, Bersani e Vendola, con il direttore Norma Rangeli che scrive Sinistra in campo. Cioè, queste sono le notizie politiche del giorno. Vabbè, Libero per oggi, nel titolo lo devo leggere, è straordinario. Il titolo d'apertura di Libero, attenzione, è proprio dedicato alla ammucchiata, secondo Maurizio Belpietro, del centro-sinistra. Il titolo però è questo: più culi che cadreghe. Ora, forse ricorderete la straordinaria scena di Aldo Giovanni e Giacomo sulla cadrega, no? La cadrega è la sedia in milanese. Più culi che cadreghe. E Bersani e Vendola si alleano per poi sfidarsi. Ammucchiata contro Silvio, e Maurizio Belpietro all'interno scrive, insomma, a sinistra c'è D'Alema, Rutelli, Montezemolo, Veltroni, Gianfranco Fini viene messo così, insomma, più capi che voti, troppi galli nel pollaio, più candidati che posti da occupare. Questo nell'editoriale di Belpietro, ma il titolo di apertura di prima pagina è più culi che cadreghe. Ora, lo so, Andreotti diceva che a pensar male si sbaglia, ma forse, si fa peccato, ma forse. Però insomma, quella parola più culi che cadreghe, poi sotto Bersani e Vendola si alleano per poi sfidarsi. Ma... chi lo sa? Forse allora la notizia politica più interessante è quella che è anche l'apertura del Corriere. Persone indegne nelle liste, lo abbiamo sentito, il capo dell'antimafia, Beppe Pisanu, presidente della Commissione parlamentare antimafia, ha detto ci sono nelle ultime amministrative state molte persone indegne. Questo lo abbiamo scoperto perché le prefetture ci hanno fornito i dati delle persone amministrative, liste piene di candidati indegni. Per la verità, l'accusa anche dell'antimafia è questa: di 90 prefetture, 57 hanno risposto in modo completo, 5, Agrigento, Mantova, Messina, Catania e Bolzano, manco hanno risposto, 25 lo hanno fatto in modo parziale, tanto che il Corriere intervista il prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi, che dice in questa intervista è poco democratico raccogliere quei dati, perché per accertare che l'assunzione della carica di amministratore locale avvenga solo da parte di soggetti che non hanno i controindicazioni, diciamo, vengono raccolti i dati dopo, ma possiamo fare poco. Nessuna inadempienza può essere ascritta ai prefetti perché la raccolta di quei dati non è prevista da alcuna disposizione di legge. La ratio è non disperdere l'attività investigativa in un numero enorme di accertamenti. Dunque Lombardi dice è poco democratico raccogliere quei dati. Non è vero che non abbiamo collaborato, è che non c'è una legge che ci impone di dare questi dati. Su questo tema scrive anche Roberto Saviano in prima pagina di Repubblica, in un editoriale dal titolo Le mani mafiose sulla democrazia. Vi racconto una storia, scrive Saviano, una storia semplice, facile da capire, una storia come che dovrebbero conoscere tutti, e i pochi la conoscono e la tengono per sé. Come si truccano i voti, come si controllano le elezioni. L'organizzazione si procura schede elettorali identiche a quelle che l'elettore trova ai seggi tramite scrutatori amici o stamperie. Le compila e le tiene lì. L'elettore che vuol vendere il suo voto va da referenti del clan, riceve la scheda già compilata, si reca al seggio, presenta il documento, riceve la scheda regolare, in cabina sostituisce la scheda data dal clan già compilata con la scheda che ha ricevuto al seggio, che si mette in tasca, esce dalla cabina, la consegna al clan, poi va via. Torna infine dagli uomini del clan, dà la scheda non votata e riceve i soldi, 50 euro, 100, un cellulare, una piccola assunzione se è fortunato. Ma così avviene in molte parti d'Italia, scrive Saviano. Quando un'organizzazione può decidere del destino di un partito controllandone le tessere, quando può pesare sul governo di una regione, quando può infiltrarsi con assoluta dimestichezza e noncuranza, quando può decidere le sorti di quasi 6 milioni di cittadini, non ci troviamo di fronte a un'emergenza, a un'anomalia, a un caso Campania o un caso Calabria. Ci troviamo al cospetto di una presa di potere già avvenuta, della quale ora riusciamo semplicemente a mettere insieme alcuni segni e sintomi palesi. Saviano, che ricordate, aveva lanciato alle ultime elezioni, e lo ribadisce, la richiesta all'OSCE, all'ONU, all'Unione Europea di poter monitorare le elezioni amministrative, una cosa che non è avvenuta. C'è anche una bella intervista, se volete, al Trota, Renzo Bossi, il figlio di Umberto Bossi, in un'intera pagina su Libero, a pagina 16. E insomma, l'altra notizia politica interessante la pubblica sempre Libero ed è questa, cioè interessante, almeno nuova, diversa, sulla quale ci si può un attimo interrogare. Franco Bechis, in prima pagina di Libero, che si è letteralmente dematerializzato, eccolo qui, col più culi che cadreghe. Franco Bechis scrive: Gianfranco Fini, l'occasione dei finiani per processare il Cavaliere. È una vicenda che solo Libero pubblica. Gianfranco Fini è pronto a consegnare per la prima volta ai magistrati Silvio Berlusconi. Non è un caso da manette, è una causa civile. Il gruppo di Future Libertà, secondo quanto risulta Libero, è infatti orientato a concedere l'autorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale Civile di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio. Di che si tratta? Si tratta di una causa intentata da Alessandro Nencini, giudice della Corte d'Appello al Tribunale di Firenze, nonché segretario della sezione toscana di Magistratura Democratica, il quale si è sentito danneggiato da Berlusconi e vuole un risarcimento simbolico di 10.000 euro. La vicenda è del 24 marzo 2009, il Cavaliere si imbarca sul treno Milano-Roma e, chiacchierando con i giornalisti, racconta che la linea ferroviaria è stata costruita da Impregilo e dice: la cosa drammatica è che i dirigenti di Impregilo, dopo aver fatto questo lavoro dell'alta velocità che ha del miracoloso, sono stati condannati a 5 anni dalla magistratura di Firenze dopo essere stati assolti da quella di Bologna. Qualcosa di patologico, una metastasi del nostro paese contro cui dobbiamo reagire, perché c'è qualcuno che usa la legge come un Moloch che deve colpire. Ora, Berlusconi non ha fatto nomi, ma questo magistrato Nencini, che è colui che ha condannato i dirigenti di Impregilo, si sentì colpito nel vivo. Ed ecco che ha fatto causa civile, causa che si è arenata davanti all'immunità parlamentare. Il fascicolo però è ora approdato alla Giunta per le autorizzazioni e, per Libero, i finiani sarebbero pronti a dire: ebbene sì, concediamo l'autorizzazione a procedere contro il capo del governo per una causa civile. Vedremo come va a finire questa vicenda. Non è politica, è TV, ma insomma, sapete che ormai in Italia TV, politica, si mischia tutto. La vicenda mi era arrivata all'orecchio e oggi conferma, c'è sui giornali. Guai in vista per Michele Santoro. Sapete che novità, voglio dire, anche questa ogni giorno se ne parla. La Stampa e Il Fatto Quotidiano pubblicano che cosa? La Stampa, Rai, il direttore generale Masi manda in panchina Santoro e Annozero. Oggi scatterà la sospensione del giornalista. 3 settimane di riflessione, oggi l'attesa sentenza, emetterla il direttore generale della Rai, Mauro Masi, che accusa Santoro di averlo apostrofato col famoso vaffanbicchiere in apertura di Annozero, la prima puntata. Non ci sarà il licenziamento che Masi aveva addirittura ventilato, racconta Paolo Festuccia sulla Stampa, ma la sospensione, 1 o 2 puntate. Anche per Il Fatto Quotidiano, Masi vuole licenziare Santoro, a pagina 10. Tanto che, secondo Carlo Tecce, Masi avrebbe addirittura chiamato uno per uno i consiglieri di amministrazione, quelli che fanno capo alla maggioranza, diciamo così, per dire: io propongo il licenziamento per Santoro, voi che fate? Prima di svelare i risultati, suona divertente, racconta Il Fatto, la risposta di un vice direttore generale: ha ricevuto tanti 2 di picche. Non ha chiamato, invece, non ha interpellato, questa secondo la ricostruzione, i consiglieri di minoranza, Nino Rizzonervo, Giorgio Vastraten, Rodolfo De Laurentiis e anche il presidente Paolo Garimberti della RAI. Certo però la tattica di Masi, che oggi ha messo nel CDA, nel Consiglio di Amministrazione, un punto, sanzioni Santoro, è pare quello, orientato a sospendere per una decina di giorni, per un paio di puntate, Michele Santoro. E l'Italia si spaccherà su questo. Adro, via il sole, ma il sindaco non molla. Leggo pagina 8 e 9 della Padania. Il caso è quello della scuola del Bresciano di Adro, tappezzata di 700 simboli che rimandano alla Lega. Il sindaco Oscar Lancini, in questa intervista a La Padania, dopo 20 giorni di silenzio, ha parlato. Fa un'intervista alla Padania, dice: sono simboli padani, non leghisti, non ho violato alcuna legge, i cittadini sono con me, sono pronto a rimettere tutto, denunciare chi li ha fatti togliere, io non esco dalle mie competenze. E poi accusa i media, mi hanno trattato, mi suonavano a mezzanotte il citofono, aspettavano che mio figlio e mia moglie uscissero dal supermercato per accecarli coi flash, come fossimo dei delinquenti. E poi dice la Gelmini: non mi ha mai scritto, mai telefonato, ha espresso solo un'opinione. Comunque in questo caso il ministro non può modificare le scelte di chi amministra democraticamente una città. È il tema del nostro sondaggio. Ad Adro sono stati tolti alla fine i simboli che richiamano la Lega. Ci sono paginate su tutti i giornali, anche il Corriere. Adro toglie il sole leghista, il sindaco dice scuola fuori legge. Per il Fatto Quotidiano e addirittura l'apertura di prima pagina, ne aveva fatto una campagna, c'è un preside ad Adro, questo è il titolo del Fatto, e Antonio Padellaro, il direttore, commenta proprio su questo. Viva l'Italia di Gianluigi Cadei, che è il preside, che ieri mattina con bidelli e insegnanti ha cominciato a smontare i simboli leghisti della scuola di Adro. Rimetterò i soli con un cacciavite, e questa è la minaccia sulla stampa, staremo a vedere, è il tema del nostro sondaggio, vi chiediamo: via quei simboli, secondo voi è stato giusto così? È giusto così? Lungi dall'essere finita, mi sembra, questa vicenda. Ne parleremo alle 8.30, ma voi votate su radio24.it. Alle 9 invece Oscar Giannino parlerà di questa vicenda, di queste due vicende di cronaca. Prima l'aggressione al tassista e poi ieri l'aggressione a questa infermiera a Roma, con un pugno dato da questa persona, per cercare di interrogarci, insomma, a che punto siamo finiti. È l'apertura del Messaggero, comprensibilmente il quotidiano molto diffuso a Roma. Colpita nel metrò, donna in coma, un passante blocca l'aggressore. C'è anche l'intervista a questo passante, Manuel Milanese, 26 anni, sottufficiale della Capitaneria di Porto, residente vicino a Latina. Si è comportato da cittadino con la C maiuscola, è colui che ha fermato l'aggressore dopo il pugno. E dice, continuava a ripetere: questo ragazzo, questa donna mi insultava e mi ha sputato, l'ho colpita con un pugno. Sta di fatto che, insomma, al di là del Fatto di cronaca, ci sono anche i commenti sia di Giuseppe De Rita, colui che da 40 anni, il sociologo, monitora con i suoi rapporti del Censis l'Italia. De Rita: questa è l'Italia delle pulsioni, smarrito il senso delle norme etiche. Un'intervista a Paolo Conti sul Corriere della Sera. De Rita fa risalire a tutto questo agli anni a cavallo tra il 60 e il 70. Addirittura uno degli slogan del 68, che era "la norma ci uccide". Ecco, ricordo anche una suggestiva risposta di Toni Negri: "io non voglio rispettare la norma dei giudici naturali, voglio un giudice che mi capisca". Dice De Rita: l'esplosione del soggettivismo etico comincia con la rivendicazione dell'io come arbitro unico della propria vita. Io sono il principe di me stesso, se ho qualche pulsione la soddisfo, sono io il padrone del mio corpo. Sta di fatto che, volete sapere come, io l'avevo detto 3 giorni fa, mi sembra che nelle nostre città, nelle grandi città, le persone che dicano mi è scoppiato l'embolo e ho fatto questa cosa, come ha detto 2 giorni fa a Milano quello che ha aggredito il tassista, stanno aumentando. Sapete la persona che è stata fermata a Roma dopo il pugno al metrò cosa ha detto? Ho sbroccato. Mi è partito l'embolo, ho sbroccato, la gente ormai sbrocca così. E state attenti a suonare in macchina al semaforo, perché ci capita anche che uno scenda e vi metta le mani addosso. Insomma, ormai i rapporti sociali all'interno delle città, delle grandi città, sarà lo stress, sarà non lo so che cosa. Ma il dato di fatto è questo, si interrogerà Oscar Giannino alle 9. Oh, il Sole 24 Ore oggi pubblica dei dati che fanno, a mio modo di vedere, scalpore. Hanno fatto sobbalzare sulle sedie anche quelli della Guardia di Finanza che hanno indagato. Autonomi, colpo all'evasione. Questo è il titolo di apertura. Bene, sappiate che la Guardia di Finanza ha fatto un monitoraggio sul mondo dei lavoratori autonomi e ha scoperto su 1500 persone, professionisti, che sono stati controllati con consulenze da oltre 100.000 euro, uno su tre le ha nascoste totalmente al fisco. 400 su 1500 positivi come evasori totali. Le professioni più infedeli, medici, ingegneri e geometri, il 15% dei controlli. Poi gli avvocati, l'11%, gli architetti, 6%. Lazio, Lombardia e Campania, le regioni con il livello di sommerso più alto. Lo so, ci ascoltate molto professionisti, se leggete molto il Sole 24 Ore, voi professionisti, ma interrogatevi su questo. Una consulenza su tre nascosta al fisco. Pagina 3 del Sole 24 Ore, indagine della Guardia di Finanza di cui parla Marco Mobili. È davvero incredibile. Le Fiamme Gialle hanno incrociato i dati comunicati con i modelli 770 da società, organizzazioni di categoria, amministrazioni pubbliche relativi ai compensi erogati negli ultimi anni, e questo, dall'incrocio delle informazioni, sono sbalorditi anche la Guardia di Finanza, che dicono ed è solo la punta dell'iceberg. Intanto, visto che ieri si parlava di controlli e quant'altro della finanza e del nuovo sistema anticipato da Il Sole 24 Ore, il sistema SERPICO come acronimo, eccolo qui, Il Sole che intervista Serpico. È andato a scovare con Eliana Di Caro a Harlemville il vero Serpico, Frank Serpico, 73 anni. A pagina 3 del Sole 24 Ore dice: guardi, ovviamente non so di questa iniziativa dall'Italia, ma tra un cucchiaio di minestrone e l'altro, seduto accanto alla sua compagna francese, dice: se mi accorgo che il mio nome è usato in modo scorretto mi arrabbio, ma quando viene usato per fini buoni, come questo, mi pare di capire, l'evasione fiscale, il contrasto all'evasione fiscale, allora dico va bene. Frank Serpico parla Serpico, così si scovano i truffatori. Beh, interessante, sono 24 ore, di parlare di evasione è andata anche a scovare il Serpico, quello originale. Guardate, cito solo il titolo, alcol test nullo se manca l'avvocato. Voglio concludere così, pagina 19 del giornale, anche questa è Italia. Nino Materi racconta di un 62enne beccato con 1,48 di alcol, 20 giorni di condanna di arresto con decreto penale. Il GIP, il giudice, il GIP di Genova, credo, lo ha assolto. Perché? Perché quando è stato fatto il controllo con l'alcol non c'era, non gli hanno detto che doveva avere, poteva avere a disposizione un avvocato. E dunque, bevete, andate in macchina, c'è sempre un GIP che poi vi annulla tutto. Viva l'Italia, il GR.